on the road again. I just can't wait to get on the road again. A life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Ben ritrovati su Radio Libriamoci Web, io sono Livia Napolitano, i nostri racconti on the road tornano anche questa settimana. Da on the road a on the road è iniziato il 2015 all'insegna dei malanni di stagione. Abbiamo infatti fatto ascoltare la scorsa settimana uno dei racconti a tema dal titolo Febbre di Andrea Fabiani. Questa settimana invece è la volta di Annalisa Soldà. Potete leggere la sua simpatica presentazione, due note biografiche su Notte Tempo Blog, mentre ora vi lascio all'ascolto del racconto Il paziente, scritto ed interpretato da Annalisa Soldà. Quegli occhi da lupo puntati addosso. Li sogno ancora e sento la neve che scivola sul collo e arriva alle spalle e poi giù lungo la schiena. Ho freddo, tremo. Io ero caduto. Ero steso sul fango nel piazzale davanti alla scuola. La giacca, i pantaloni e la camicia bagnati. Ricordo che lui mi schiacciava il viso a terra nell'acqua ghiacciata e rideva insieme agli altri. Entrai in aula così. Ho tenuto quei vestiti per ore, sino a quando non arrivò mia madre a prendermi. Avevo la febbre i giorni seguenti. Questo non lo ricordo, me lo hanno raccontato. Mi hanno detto che gridavo e mi muovevo nel letto come se fossi stato collegato con un cavo alla presa di corrente. Quando ripresi conoscenza ero in una stanza che non era la mia. Un infermiere stava preparando un'iniezione e i miei mi guardavano attraverso un vetro. Per me, ogni giorno, il tragitto da casa a scuola era una scommessa. Camminavo e mi voltavo ogni 2 secondi a guardare il bosco di facciate sbiadite, di portoni profanati dai pennarelli indelebili e di motorini truccati che mi stavo lasciando alle spalle, da cui mi aspettavo potessero spuntare in ogni momento quei lupi. Al loro richiamo, 30 secondi per la fuga, poi le zanne, gli artigli, il loro fiato che puzzava di pomeriggi passati insieme al branco lontano dalla tana. Io, una preda facile, che odorava di appretto e pasti caldi. Non ho mai più temuto tanto nessun altro quanto quel brancati e la sua combricola di senza cervello. Avrebbero dovuto terminare le scuole dell'obbligo prima di me. E invece le ho finite prima io. Ora curo gli altri per professione. Ma adesso che lo rivedo, qui disteso davanti a me, nonostante lo sguardo umido e il fisico floscio come un sacco vuoto, che mi venga un colpo se non ho voglia di levarmi il camice e scappare da questa corsia. Chiedo al ragazzino che sta spingendo brancati lungo il corridoio: che sintomi ha? Lui si ferma davanti a me e mi dice: febbre, febbre molto alta. Non siamo riusciti a farlo smettere di tremare. Ha una ferita, potrebbe esserci un'infezione. È quasi mattino. Il mio turno sta per terminare. Il volontario probabilmente non ha ancora finito le scuole superiori. Mi fissa aspettando un mio ordine, una mia indicazione sul da farsi. È chiaro che a lui non gli è mai capitato di mettere veramente in discussione l'esistenza della giustizia. Gli parlo con lo sguardo rivolto all'uscita. Vado un attimo a cercare il mio collega che dovrebbe darmi il cambio ora. La mia ferita è profonda. Si è formata una crosta che è lì da giorni e mesi e anni a difendere la pelle che si sta ricostruendo. Se si staccasse, la carne potrebbe ricominciare a sanguinare. 19 anni, sono passati 19 anni. Il ragazzo afferra il lettino per accostarlo alla parete del corridoio. Guardo quel vigliacco di brancati che si dimena senza sosta sotto la coperta e provo pietà. Pietà per me stesso. Aspetta, ci vado dopo. Porta la barella nel mio studio. Curo la ferita di quel lupo. La mia, ormai, è solo una cicatrice sotto una crosta inutile.